Luponer Summer Spurgo. Signore e signori, quanta brutalità per riprendere il Luponer Summer Spurgo a settembre. Rimane questo e un altro appuntamento, dopodiché ci sentiremo davvero in diretta su Radio R con la voce di Vanni, che questo qua è via Flamica, quello che va salutato all'inizio. Non sentirete invece la voce di Lord Spike Heart, che abbiamo invece ascoltato adesso con il brano Titevim. Lui è un vocalist keniano, scrittore e produttore dei Duma, Martin Kania all'anagrafe, se c'è l'anagrafe in Kenya, qualcosa del genere, dall'ultimo album intitolato com'è, The Adept, abbiamo ascoltato il brano TYVM remixato da Sanyonji, cioè, o meglio, con la presenza di Sanyonji dei B-B-B-B-B-B-B, che è un gruppo giapponese di musica folle, tipo il loro nome B-B-B-B-B-B. Ora passiamo ad altro, però non sempre più o meno sul metalleroso, anche se più sbarazzino. È un gruppo speed metal, tra lo speed metal e il punk ridanciano. Vengono da Los Angeles, California, si chiamano Zig Zags. E da un po' che si divertono facendo il metallo. E ultimamente hanno pubblicato un album intitolato Strange Masters, dove hanno riregistrato come si deve dei loro vecchi pezzi. E alcuni pegano proprio bene. Per esempio questo Fallout. L'ascoltiamo, la Strange Masters version di Fallout degli Zig Zags. We'll be right back. On Air Summerspurgo. Ah, non vi si apre tutto quando ascoltate Adriano Canzian. Adriano Canzian è un potentissimo DJ techno ed electro clash, ABM, techno body music, come volete chiamarlo, da Treviso, se non erro. Pubblicato nel 2003 il singolo Macho Boy per la International Gigolo Records. Adesso, dopo più di 20 anni, è uscito un albumone con 18 versioni dello stesso pezzo, approfondimenti, direi decisamente approfondimenti. La versione che abbiamo ascoltato era Macho Boy Pink, lui era Adriano Canzian. E ora passiamo invece di nuovo in America perché la Metropolis ci dà in pasto un nuovo EP. Con dei singoli remixati di Brittany Bindrim. Brittany Bindrim è la ex vocalist degli Ice Scintilla, una band così IBM Future Pop americana da Chicago, e in questo Sister Maestros, l'EP che ascoltiamo questo brano, abbiamo selezionato per voi Atlas, il brano Atlas remixato da Matt McJunkins, che è quello dei A Perfect Circle, che si è abbassato a tanto. Pensa tu a Brittany Bindrim, ascoltiamo adesso Blade. Lupo on air. Summer Spurgo. Questo è il nome di questa band francese dedita all'industrial metal proprio come va fatto. E Rammstein si sono persi per strada, e Fleet Feet si sono persi per strada, i Ministri lasciamo perdere, ci tocca divertirci con gli Horsk dalla Francia. Questo è l'album, l'ultimo si intitola Body, che abbiamo ascoltato la Bodybuilding. E ora dalla Francia, il tratto è molto più breve rispetto agli Stati Uniti almeno, per arrivare alle Marche, esattamente a Iesi, da dove vengono gli Isaröseit, trio noisecore composto da Giovanni alla voce, Riccardo alla batteria e Edoardo al basso, che hanno quest'anno pubblicato un album nuovo intitolato La migliore delle feste. Beh, da quest'album ascoltiamo il brano La gioventù attacca, Isaröseit. Epitaffio di Isa. rimanere fermi, mai. Il mio corpo è il mio, il mio cuore fermo. Fermo. Lupuner, Summersburgo. Candlemas Eve, February 1st, in the year 1692, a coven of witches, whose power came from the devil, gathered beneath the Raven's Inn to perform a black mass in the honor of Lucifer. We'll be right back. quando ascolto il metallo come va fatto, sono sempre contento. Questi sono i Gotrosity, erano i Gotrosity da Brasov in Romania. Questo è il loro EP di debutto, Atrocity of God, da cui abbiamo tratto il brano Black Magic Ritual. Ne avranno ancora delle belle nel futuro? Boh, spero che ne avranno anche gli Ireful, altra band di metallo pesante, thrash metal da Palermo. Debuttano con l'album Agents of Doom proprio adesso, e da questa ascoltiamo ora il brano Ireful, che dà nome alla band, Ireful da Palermo. Samersburg. dicono che sia intelligent dance music, ma questa qui più che IDM sembrava proprio darsi al techno. Si chiama Purgate, la firma dietro a questo brano, dato l'album Transcend. No, Purgate è il nome dell'artista, il progetto musicale di Frédéric Harbour, francese. E Purgate, il progetto musicale, Transcend l'album e il brano che abbiamo ascoltato, Rammetter. A me, a casa mia, la chiamo Industrial Techno, a casa loro IDM, però vabbè, io abito a casa mia, mica abito in Francia, così come non abito in Francia nemmeno Gilles Aubry, che nonostante il nome, perché sta a Berlino e adesso con la firma YRLNG ha pubblicato una colonna sonora per film lungometraggio sperimentale sulle condizioni delle alghe che stanno morendo causa inquinamento in Marocco. Sono problemi che Gilles Aubry vive evidentemente, e ha realizzato questo film e colonna sonora. Il film si chiama Herbia Arsha Sinta, credo che per me non ha senso, ma sono chiaramente delle specie in via di estinzione di alghe. Pain is my body è il brano che ascoltiamo adesso, così, perché pure noi dobbiamo soffrire insieme alle alghe. YRLNG, vabbè, quella roba lì. Summer Spurgo. Nuovo album degli House Job, che sono una band di IBM, Electro Industrial, che attiva dagli anni 90 con Daniel Mayer e Dejan Samarčić, che stanno a Bielefeld, in Germania, appunto. Il nuovo album è talmente atteso che non l'abbiamo aspettato, per cui abbiamo ascoltato direttamente il nuovo singolo, un brano che è un'anteprima, si titolava Opposition. Dobbiamo fare così. E con questo contentino, questo assaggino dell'album dei Yaujob, termina questa puntata di Lupon Air Summer Spurgo, o meglio non termina proprio ora, perché vi lasciamo con un'ultima scheggia. Sono i Total Sham, un gruppo hardcore punk che non ha intenzione di cambiare il mondo, come dicono loro, da Kansas City, che nonostante il nome non sta in Kansas ma in Missouri. Loro sono i Total Sham e il brano che ascoltiamo è Zeniac, e questo è stato Lupon Air Summer Spurgo. I think I'm an idiot. Summerspurgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.